il mazzolin di fiori che vien dalla montagna. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna. E vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Lo voglio regalare perché è un bel massetto. Lo voglio regalare perché è un bel massetto. Mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, vada ben che non si bagna, che lo voglio regalar, regalar, regalar, regalar, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori.